Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Una serie di scosse di terremoto colpisce il Chianti, scuole chiuse in 5 comuni, sisma sentito anche a Firenze, al momento non risultano danni. Mafia Capitale, sequestro da 100 milioni di euro ad uno degli imprenditori coinvolti, confermato il carcere per Buzzi, Riccardo Mancini in libertà. Il centro per rifugiati di Mineo va chiuso dopo i tentativi di infiltrazione di Carminati e dei suoi, parla così il capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale in un'intervista a Radio 24. Strage in Australia, 8 bambini uccisi a coltellate in una casa, trovata ferita la madre. Dopo la vittoria netta della Juve contro il Cagliari si attende la risposta della Roma domani in campo contro un Milan molto carico. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, contatti come sempre effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook e via SMS durante la trasmissione, il 349-238-6666. Prima di aprire e partire con le notizie di questa giornata, il tempo solamente di dirvi che questa, almeno per quest'anno, per questo 2014, è l'ultima puntata in diretta di Effetto Giorno, ritorneremo il 5 di gennaio, nel frattempo però potrete continuare ad ascoltarci perché in questo periodo di Natale andrà in onda il giornale radio dalle 13 alle 13.15 e poi ci sarà uno spazio di approfondimento curato proprio da Effetto Giorno nel quale cercheremo di raccontare un po' le notizie di quest'anno e anche alcune storie naturalmente. Adesso ci occupiamo appunto delle notizie di questa giornata e iniziamo dal terremoto nel Chianti. Gli aggiornamenti da Ubaldo Cianciulli, buongiorno. Simone, buongiorno. È da un paio di giorni che in Toscana la popolazione sta avvertendo lievi scosse di terremoto. Ieri nell'Empolese, stamani a San Casciano di 3,5 gradi Richter, ma un'ora e mezza fa la terra ha tremato ancora più forte, i sismografi hanno registrato 4,1 gradi, soprattutto a Firenze, Siena e Schianti, ma anche fra Prato e Pistoia e anche ai piani bassi. Per precauzione alcune scuole a Firenze e Siena sono state evacuate, chiuse, molta preoccupazione, tante telefonate ai vigili del fuoco, ma per fortuna non si segnalano danni a persone o cose. I sismografi hanno registrato tre scosse ben distinte, una poco dopo l'una di notte, un'altra alle 10.39 e l'ultima alle 11.36, sempre nella zona del Chianti, interessando l'area di Barberino Valdelsa, Tavarnelle e San Casciano. Un elicottero attualmente della Protezione Civile sta sorvolando la zona per verificare la presenza di eventuali danni. E per il momento è tutto. Grazie Ubaldo Cianciulli per questi aggiornamenti, torneremo a parlarne tra poco, ci collegheremo con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e poi più avanti nel corso della trasmissione anche con la Protezione Civile Regionale della Toscana per capire se effettivamente non ci sono danni, perché le verifiche sono in corso in questi minuti. Veniamo all'inchiesta su Mafia Capitale, è stata la mattinata di un maxi sequestro. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. I sequestri arrivano puntuali dopo gli arresti e come tutte le mafie anche quella della capitale ora viene colpita nel suo punto più sensibile, le ricchezze. Così scattano i sigilli per l'intero patrimonio dell'imprenditore che aveva messo le sue società a disposizione di Mafia Capitale. Beni per oltre 100 milioni sono stati bloccati infatti a Cristiano Guarnera, l'uomo a cui il boss dell'organizzazione capitolina Massimo Carminati spiegava a voce l'ormai celebre metafora del mondo di mezzo all'interno della quale si colloca l'organizzazione romana. Sono 178 gli immobili e 3 i terreni bloccati ora dalla Guardia di Finanza insieme ad uno yacht e a 10 mezzi tra auto e moto, insieme alle quote di 6 società, soprattutto quelle che appunto Guarnera, che è stato arrestato nel blitz del 2 dicembre, aveva messo a disposizione di Mafia Capitale, diventando, scrivono gli inquirenti, da imprenditore colluso a direttamente mafioso, come ricorda anche il colonnello della Guardia di Finanza Gerardo Mastrodomenico. Il suo ruolo era stato individuato quale quello di mettere a disposizione per gli scopi dell'associazione le proprie società immobiliari, ad esempio con particolare riferimento all'emergenza abitativa del comune di Roma Capitale, oltre agli appalti vinti dalle cooperative di Buzzi, i relativi immobili per far fronte all'emergenza abitativa venivano conferiti e dati in locazione da società riconducibili al Guarnera. Oggi il riesame intanto ha confermato l'aggravante mafiosa per alcuni dei protagonisti, da Salvatore Buzzi a Giovanni De Carlo ad altri 9, mentre torna in libertà Riccardo Mancini, già amministratore delegato di Eur S.p.A., domiciliari invece per l'ex direttore generale dell'AMA. Dunque Giovanni Fiscon, questo è il quadro di Mafia Capitale, un quadro che secondo il presidente del Senato Pietro Grasso emerge chiaramente come si tratti di mafia, perché la mafia appunto sta cambiando. E per ora è tutto. Grazie alla nostra Raffaella Calandra. L'inchiesta però, come sapete, non riguarda solamente gli appalti e il denaro, c'è una parte che ha risvolti più strettamente correlati con la cronaca nera. Questo è dedicato all'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi. Ci sono anche omicidi da addebitare alla cupola di Mafia Capitale? È quello che si domandano in questi giorni gli inquirenti che ieri hanno arrestato i presunti killer di Silvio Fanella, l'ex cassiere di Gennaro Mokbel, l'uomo accusato della maxi truffa da 2,2 miliardi di euro ai danni di Telecom e Fastweb. Dalle carte spuntano forti collegamenti tra l'omicidio e l'inchiesta su Mafia Capitale. Si segue il traffico telefonico di una cabina sulla via Flaminia utilizzata da Massimo Carminati, tenuta sotto controllo dal ROS dei Carabinieri. C'è una telefonata intercettata tra Massimo Carminati ed Egidio Giuliani in carcere dallo scorso 7 settembre. E c'è un'intercettazione in cui Carminati e Riccardo Brugia parlano di un debito che Mario Denaro, uno degli arrestati di ieri, avrebbe contratto con Gennaro Mokbel e che sarebbe il vero movente dell'assassinio. Per dirla con le parole del sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Michele Prestipino, esistono collegamenti oggettivi e soggettivi, in quanto si tratta di personaggi criminali che negli anni passati si conoscevano e avevano rapporti per l'appartenenza allo stesso contesto politico, cioè la destra eversiva. E non si può non rilevare che negli ultimi 4 anni si era registrata una recrudescenza delle attività illegali della criminalità organizzata e un numero notevole di omicidi. Si è sparato praticamente dappertutto, a Roma e in provincia. Nella ricerca dell'Eures presentata lo scorso anno si rileva infatti che omicidi volontari e tentati omicidi registrano nel Lazio nel 2012 una dinamica di crescita più 6,6% rispetto al 2011, più 21,9% rispetto al 2008, a fronte di incrementi più contenuti in Italia. E gli ultimi dati del 2014 virano la parabola statistica ancora più su, ancora verso l'alto. Quanti di questi crimini sono avvenuti intorno agli affari di Mafia Capitale? Così dunque l'inchiesta del nostro Daniele Biacchessi. Siamo all'estero con l'Australia, di nuovo nelle cronache, non un attentato ma una strage di bambini, e i contorni sono tutti da chiarire. 8 bambini uccisi a coltellate in una villetta della città di Cairns, sulla costa nord-est australiana. 7 erano fratelli, l'altro era un parente. Avevano tra i 18 mesi e i 15 anni. Con loro c'era una donna, trovata ferita e trasportata in condizioni serie in ospedale. Sarebbe la madre di 7 dei bambini. Non ci sono sospetti al momento, dice l'ispettore Asnikar. La donna non è indagata e sta collaborando alle indagini. In ospedale sarebbe stata portata anche una seconda persona, ma su questo punto gli inquirenti non forniscono dettagli. È stata una settimana difficile per il nostro paese, afferma il primo ministro Tony Abbott, ricordando il sequestro 3 giorni fa di 17 persone in un locale di Sydney da parte di un folle e simpatizzante dell'estremismo islamico. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo all'Italia adesso. È in arrivo il maxi emendamento del governo alla legge di stabilità, probabilmente nel pomeriggio. Al Senato si allungano i tempi dell'esame della legge di stabilità. Si attende ancora il maxi emendamento sul quale il governo chiederà il voto di fiducia. Dopo un nuovo rinvio, la sua presentazione è slittata al pomeriggio. L'aula di Palazzo Madama tornerà a riunirsi alle 15, mentre la fiducia dovrebbe essere votata in serata. La manovra dovrà poi tornare alla Camera per il via libera definitivo, atteso prima di Natale. Tra i punti principali ci sono la proroga del bonus da 80 euro e la riduzione dell'IRAP. Nel suo maxi emendamento il governo dovrebbe recepire tutte le modifiche già approvate dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama, che però non è riuscita a chiudere il suo esame del provvedimento. Fra queste dovrebbero figurare il congelamento per il 2015 della TASI e del canone RAI, le misure per alleggerire i tagli ai dipendenti delle province, la riduzione dell'IVA al 4% per gli e-book e il suo aumento invece sul pellet combustibile dal 10% al 22%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra l'altro alcune norme della legge di stabilità riguardano il taglio delle province, vicenda sulla quale si incrociano tanto gli effetti della riforma del Rio quanto appunto gli effetti della legge di stabilità. Ci sono proteste dei dipendenti delle province praticamente in tutta Italia, con addirittura occupazione appunto delle sedi delle province. Torneremo a parlarne più avanti col sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa, proprio per capire quali sono i contorni della cosa e se il governo sta già pensando ad una soluzione, forse già appunto col maxi emendamento di questo pomeriggio. Nel frattempo il ministro del lavoro Poletti sta incontrando le parti sociali per definire i decreti delegati del cosiddetto Jobs Act, ossia della riforma del mercato del lavoro. Abbiamo Livia Zancaner per gli aggiornamenti. Livia, buongiorno. Simone, buongiorno. Allora, è terminato pochi secondi fa l'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi. Il ministro Poletti, secondo i partecipanti all'incontro, è stato chiaro: approfondiremo le questioni poste dai sindacati, ma non ci sarà nessuna trattativa, ha detto il ministro. Dura la UIL, ha detto che se le intenzioni del governo sono quelle esposte oggi ci saranno lotte crescenti, però bisognerà prima leggere i testi dei decreti attuativi. I primi arriveranno il 24 dicembre, come ha detto il premier Matteo Renzi. Le priorità, ribadito questa mattina Poletti, sono il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, alla riforma dell'ASPI con l'estensione del sussidio di disoccupazione anche ai collaboratori, per licenziamenti illegittimi per cui scompare il reintegro ci sarà un indennizzo crescente in ragione dell'anzianità di servizio. L'entità però non è ancora stata decisa, non cambierà per le imprese con meno di 15 dipendenti. Sui licenziamenti disciplinari ci sono varie ipotesi, ha detto il ministro questa mattina, tra cui il ritorno al lavoro nel caso in cui il fatto materiale contestato al lavoratore non sussista. E per ora è tutto. E grazie anche a Livia Zancaner. L'altro fronte di politica economica naturalmente riguarda l'Europa, perché la Commissione è molto soddisfatta per l'esito del vertice di ieri. Così, in un'intervista esclusiva a noi a Radio 24, il primo vicepresidente numero 2 dell'esecutivo Juncker, Frans Timmermans, commenta il summit che si è chiuso ieri sera. Timmermans precisa anche quali reali margini di flessibilità sono stati ottenuti per gli investimenti. Sentiamolo al microfono del nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava. Per noi la cosa la più importante era la decisione sul progetto Juncker. Abbiamo una decisione positiva, dunque la Commissione è molto soddisfatta. L'Italia, insomma, sia col Premier Renzi sia con altre interviste, ha rivendicato questa vittoria sulla flessibilità, sull'avere tolto i finanziamenti dal computo del patto di stabilità. È veramente così? Conosco molto bene la posizione di Matteo Renzi. Per quanto riguarda la Commissione, dobbiamo ancora finalizzare il nostro progetto per la flessibilità. Questo progetto sarà presentato in qualche mese e poi vedremo come possiamo applicare queste regole, ma non è questione di cambiare le regole del gioco, è questione di utilizzare la flessibilità che già sta nel progetto. Al momento l'unica flessibilità che c'è, da quanto abbiamo capito, è la neutralità dei fondi nazionali che saranno dati al piano di investimenti. Non c'è nient'altro di nuovo. Bravo, esatto, è così. Quindi, se vogliamo allargare il discorso agli altri fondi nazionali di cofinanziamento dei fondi strutturali, al momento non c'è nessun tipo di novità. Abbiamo visto la volontà di Matteo Renzi, so che ci sono anche altri capi di governo che lo vogliono, e da loro di discutere di questo, di vedere un po' se il Consiglio vuole andare in questa direzione. Per la Commissione è chiaro, noi abbiamo le regole e la Commissione applica le regole. E un altro brano dell'intervista a Timmermans la potrete sentire in Europa 24 subito dopo il giornale radio delle 14. La cronaca italiana ci porta a parlare di un caso di una spedizione punitiva organizzata via WhatsApp, un caso di bullismo. Le loro vittime in genere erano compagni della stessa scuola con cui qualcuno del gruppo un paio di giorni prima aveva avuto uno screzio per futili motivi. I bulli, 18 ragazzi tra i 15 e 20 anni, pianificavano i propri ride nei minimi dettagli, grazie anche a WhatsApp, come spiega il capitano Francesco Di Pinto dei Carabinieri di Torino. Operavano attraverso questo gruppo su WhatsApp, un gruppo che era chiamato Chi non taglia esca, proprio perché teneva ad escludere gli studenti che decidevano di entrare in classe. Gli studenti invece che rimanevano all'esterno dell'istituto scolastico realizzavano questi raid. Le vittime di questi regolamenti di conti subivano furti, percosse, lesioni, ingiurie. A chiedere l'intervento dei carabinieri, il preside dell'istituto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo a parlare di calcio. Dopo la vittoria di ieri della Juventus, si attende per domani la risposta della Roma, che affronta un Milan piuttosto carico, Carlo Genta, no? Ciao Simone, sì, vittoria della Juventus e vittoria anche del Napoli, entrambe le contendenti. Juventus già volata, anzi arrivata a Doha, teatro della Supercoppa italiana lunedì, anche il Napoli è in partenza, ieri ha battuto il sempre più derelitto Parma 2-0 e ha preso un po' di ossigeno. A proposito di Roma, ha parlato, guarda, tre minuti fa, anzi sta parlando ancora, Rudy Garcia, allenatore della Roma, conferenza stampa iniziata da 5 minuti. Ovviamente la prima domanda che gli è stata fatta era quella sulla squalifica. Cosa è successo in quel sottopassaggio di Genova? E Garcia ha risposto: ma questa persona io non l'ho ancora conosciuta, comunque è successo questo, ho preso un bastone, gliel'ho spezzato su una gamba, poi ho tirato fuori la mia pistola e gli ho sparato. Questo ha detto Garcia. Ovviamente l'ha messa in questo modo, ma uno degli argomenti di questi giorni è proprio questa strana squalifica per 2 giornate dell'allenatore della Roma. Comunque, Roma che domani affronta il Milan, domani sera 20:45, domani c'è anche Sassuolo Cesena, altra partita interessante per il Sassuolo in posizione di centro classifica, per il Cesena in prospettiva salvezza, ma ovviamente che conta la partita dell'Olimpico, aspettando poi quest'ultimo atto strano anche qui della Supercoppa italiana prenatalizia il 23 di dicembre a Doha. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. L'inchiesta su Mafia Capitale, c'è stato un sequestro da 100 milioni di euro ad uno degli imprenditori coinvolti, confermato il carcere per Buzzi, in libertà invece Riccardo Mancini. Una serie di scosse di terremoto, una trentina ha colpito il Chianti, scuole chiuse in 5 comuni, sisma sentito anche a Firenze, al momento non risultano danni. Strage in Australia, 8 bambini uccisi accoltellati in una casa, trovata ferita la madre. Dopo la vittoria netta della Juve contro il Cagliari, si attende la risposta della Roma domani in campo contro un Milan molto carico. E c'è una notizia appena battuta dalle agenzie, che è il tema del quale ci andiamo ad occupare adesso, ed è una nota unitaria dei sindacati della pubblica amministrazione che si dicono pronti all'occupazione delle province ad oltranza contro la legge di stabilità. Oggi la mobilitazione si estende a tutte le province italiane, senza un intervento del governo, un passo indietro su provvedimenti dannosi e insensati non si fermerà. Questa è la nota dei sindacati. Gian Claudio Bressa, sottosegretario agli affari regionali, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Ed è esattamente di questo che andiamo a parlare con lei. Che cosa succede? Succede che nella sua attuale formulazione la legge di stabilità prevede il dimezzamento sostanzialmente delle province normali e la riduzione del 30% di quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane. Con l'obiettivo, da quel che ho capito, Bressa, è di spingere all'applicazione della famosa riforma del Rio, cioè una sorta di clausola di salvaguardia, per così dire. Sicuramente la legge di stabilità è in continuità con la legge del Rio e la sua attuazione. Quello che però deve essere chiarito, perché siamo di fronte a uno dei più colossali fraintendimenti, credo, della storia delle relazioni sindacali, perché la legge di stabilità contiene una norma che dà, è una norma speciale, che dà assoluta garanzia al personale di non perdere il posto di lavoro, proprio perché ci stiamo approntando a fare la più grande opera di mobilità nella pubblica amministrazione della storia della Repubblica, abbiamo immaginato di non farlo con le norme ordinarie, ma di prevedere un percorso speciale. Questo percorso speciale è un percorso a garanzia dei titolari degli attuali posti. Non dobbiamo mai dimenticarci che la Del Rio, il comma 96, dice che i dipendenti manterranno il loro posto il loro lavoro, posto di lavoro, manterranno non solo anche il loro livello di retribuzione. E però mi scusi, se l'Unione delle Province Italiane, che in questo momento ancora esiste, poi chissà che cosa succederà, dice che sui 43.000 passa dipendenti a tempo indeterminato delle province, 20.000 circa rischiano di perdere il posto ma di lavoro. No, è questo il fraintendimento, e mi dispiace che all'origine di questo fraintendimento sia proprio Lupi. Nessuno perderà il posto di lavoro, verranno ricollocati. Non si parla di esuberi, non si parla di licenziamenti, si parla di mobilità. E noi abbiamo fatto una norma che prevede che ci siano 2 anni di tempo perché questa operazione di mobilità possa avvenire. E in questi 2 anni, cioè nel testo che verrà depositato a minuti al Senato, si fa esplicito riferimento che questa fase transitoria avrà il suo termine al 31 dicembre del 2016. E quindi abbiamo 2 anni di tempo per fare questo tipo di operazione. Poi al 31 dicembre del 2016, proprio perché abbiamo fatto una norma speciale, scattano ulteriori altri 2 anni e mezzo prima che il processo possa dirsi concluso. Quindi è una transizione estremamente morbida. Quindi è una transizione che ci porta al 30 aprile del 2019. Di qui al 30 aprile del 2019 lei può immaginare che moltissime persone andranno normalmente in pensione, per cui una parte di questa durezza apparente viene assorbita naturalmente, ma non solo, nel corso di questi anni si darà davvero la possibilità di rifondare in maniera seria l'architettura della pubblica amministrazione nel paese, perché questa mobilità significa che per garantire le funzioni fondamentali che restano alle province, che sono scuole, strade, attività ambientali connesse al dissesto idrogeologico e assistenza ai comuni, noi abbiamo calcolato, ma non l'abbiamo calcolato con un taglio lineare, l'abbiamo calcolato sulla base dei conti consuntivi disponibili, cioè del 2012, che per fare queste funzioni basta il 50% dell'attuale dotazione organica delle province e il 70% dell'attuale dotazione organica delle città metropolitane. Sì. Tutto il resto del personale verrà redistribuito tra le regioni, gli enti locali e anche la pubblica amministrazione. Un'ultima domanda. Una cosa però che è importante. Sì. Per garantire al massimo questo tipo di operazione ci sarà una sorta del blocco di tutte le assunzioni, cioè prima di tutto dovranno essere collocate queste persone, per cui lei vede che non c'è nessuna operazione dannosa o insensata. Sì. Un'ultima domanda, su questa protesta dei dipendenti delle province avete l'impressione, è una domanda evidentemente più politica, che gli stessi magari ex presidenti delle province o neo presidenti delle province stiano un po' soffiando, per così dire? No, io non ho nessuna voglia di dare interpretazioni maliziose. Stiamo parlando di persone che devono essere rassicurate rispetto al loro destino personale futuro, e stiamo parlando di amministratori, che soprattutto quelli nuovi, che hanno deciso di essere parte di una scommessa di una riforma vera. Quindi non c'è nessun atteggiamento strumentale da parte di nessuno. C'è da parte di tutti la preoccupazione che questo processo avvenga nel migliore dei modi possibili. Io non faccio nessun tipo di valutazione. Ci chiede un ascoltatore, e questa è una domanda più generale se vuole, ma che serve fare questo taglio se poi il costo principale delle province, ci dicono, ci scrive l'ascoltatore, sono esattamente i dipendenti e quelli vanno riassorbiti? No, noi abbiamo fatto un'operazione che tende a ridefinire chi si occupa delle cose, cioè noi avevamo ancora l'idea della provincia che era quella di Napoleone, un'idea ottocentesca. Stiamo andando in una idea di provincia che è di concezione europea, cioè un'area vasta, cioè un ente che fa quelle cose che i comuni da soli non possono fare, ma le cose che i comuni da soli non possono fare sono molto di meno e molto più mirate, molto più certe e definite di quelle che facevano le province prima. Quindi il problema è un problema di riorganizzazione e di miglioramento della qualità delle politiche amministrative e delle capacità di risposte delle istituzioni e i cittadini. Non si può mai fare un calcolo avendo solo un parametro. Alla fine di questa operazione io sono convinto che ci sarà una razionalizzazione e anche una diminuzione complessiva del personale. Proprio perché si va a razionalizzare. Ma questo sarà alla fine del processo. Alla fine del processo. Non c'è nessun rischio né a gennaio né ad aprile del prossimo anno. Grazie a Gianclaudio Bressa. Grazie a Gianclaudio Bressa, sottosegretario agli affari regionali. Saluto Alessandro Amato, che era in attesa un po', e me ne scuso, dirigente di ricerca del Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Amato, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, vogliamo parlare con lei naturalmente delle scosse che ci sono state nel Chianti. Quante ne avete registrate? Quali sono state le più forti? Ne abbiamo registrate quasi un centinaio ormai da ieri. Le più forti le abbiamo avute questa notte all'1.09 con una magnitudo 3.5. Questa mattina abbiamo avuto due scosse anche più forti, 3.8 e 4.1 di magnitudo, e l'ultima proprio di pochi minuti fa, 3.2 alle 13.09. E tante altre piccole scosse. Naturalmente la questione ormai, soprattutto dopo la sentenza dell'Aquila, diciamo così, sta diventando complicata anche da affrontare, se vogliamo, però naturalmente è impossibile prevedere quanto duri questo sciame sismico. Sì, allora intanto ha detto sciame, ha detto bene, perché in questo caso appunto quando si tratta di tanti terremoti piccoli e ogni tanto qualcuno più forte qua e là, come è stato questo caso, vengono definiti sciami appunto, contrariamente alla sequenza con la scossa forte e poi le repliche o gli aftershock dopo, quindi è uno sciame sismico. Le durate sono molto variabili di questi sciami, certe volte durano veramente pochi giorni o addirittura qualche volta poche ore. Qualche volta abbiamo visto il Pollino, Gubbio e tante altre circostanze durano mesi, quindi adesso è un po' presto per dire quanto durerà, siamo appunto a un giorno di durata, è ricco, ci sono molte scosse piccole. È una zona che nelle vostre mappe, che naturalmente si basano sugli eventi precedenti e quindi non sono delle mappe di previsione, lo chiariamo anche per gli ascoltatori proprio perché sia chiaro, è una zona particolarmente a rischio? No, non lo è, però questo non vuol dire che non possa avere terremoti forti. Dunque, le aree a maggiore pericolosità, quindi a maggiore probabilità di accadimento dei terremoti e di scuotimento, quindi nella zona toscana, limitiamoci adesso all'Italia centro-settentrionale, sono quelle dell'Appennino, quindi la Garfagnana, il Mugello, la zona dell'Aretino, la Val Tiberina, eccetera. Lì ci sono storicamente molti terremoti, anche abbastanza forti. La zona invece interna della Toscana, quindi tra Firenze e Siena, ha una minore frequenza di terremoti storicamente, una minore deformazione osservata dai dati, ad esempio dai dati geodetici, dai dati GPS, quindi sappiamo che si deforma meno, ma si deforma, quindi i terremoti sono più rari, ma ci sono. Cito solo quello del 1895 come esempio, che è un terremoto abbastanza forte che avvenne pochi chilometri a nord dello sciame attuale, più verso Firenze, e fece danni importanti anche a Firenze stessa e in tanti comuni del Fiorentino, Prato e via dicendo. Grazie ad Alessandro Amato, dirigente di ricerca del Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per parlare come sempre della borsa e poi nella seconda parte della trasmissione sentiremo l'intervista al prefetto Morcone, che ci dice che il centro per rifugiati di Mineo potrebbe essere chiuso o andrebbe chiuso, e poi ci collegheremo con un dirigente della Protezione Civile Toscana proprio per capire se ci sono stati danni oppure no. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sono un centinaio le scosse di terremoto che hanno colpito il Chianti, scuole chiuse in 5 comuni, il sisma sentito anche a Firenze, al momento non risultano danni. Mafia Capitale, c'è stato un sequestro da 100 milioni di euro a uno degli imprenditori coinvolti, confermato il carcere per Buzzi, Riccardo Mancini in libertà. Strage in Australia, 8 bambini uccisi a coltellate in una casa, trovata ferita la madre. Protesta ad oltranza dei sindacati della pubblica amministrazione contro i tagli previsti nella legge di stabilità alle province. Si temono licenziamenti. Il sottosegretario Bressa ha rassicurato, come avete sentito, ai microfoni di Radio 24, nessuno perderà il posto. La borsa. Borse in diretta. E la giornata è negativa, meno 0,98% il FTSE MIB, meno 0,86% il FTSE All-Share, Francoforte cede lo 0,31%, Parigi lo 0,15%. Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Come mai vanno male le cose oggi? Oggi c'è una forte volatilità in Europa, in parte dovuta al fatto che non ci sono indicatori macroeconomici di particolare rilievo, in parte dovuta a scadenze tecniche su opzioni e su future che hanno accentuato questo movimento. Si è partiti abbastanza bene, anche in maniera vivace in alcune piazze, e invece proprio Milano ha condotto poi il dietrofront, guidato soprattutto dalle banche. Ieri sera era arrivata la revisione del rating da parte di Standard & Poor's su diverse banche europee, banche italiane, scusate, intese Unicredit in primis, per allinearlo a quello sovrano che è stato, a quello italiano che è stato abbassato la scorsa settimana. Questo ha indotto, per quanto atteso, un po' di malumore sul settore. Questo ha trascinato in basso innanzitutto Milano, ma anche poi le altre borse europee si sono fatte prendere da questo malumore. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ad Andrea Fontana in particolare. Buona giornata, Andrea. Buona giornata a voi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il centro richiedenti asilo di Mineo va chiuso, a dirlo è Mario Morcone, che è il capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale. Dopo il nostro reportage al centro in provincia di Catania, dove sono ospitate 4.600 persone a fronte di una capienza di 2.000, Valentina Furlanetto lo ha intervistato. Il problema di Mineo è di una scelta elefantiaca, e come tutte le scelte elefantiache naturalmente costituiscono poi un problema sia nella gestione ordinaria sia nel futuro di quelle persone. È un centro che va chiuso. Magari questa posizione è un po' tranchante, però la sostanza è quella che le ho detto: non possiamo permetterci un centro così grande. Luca Odven, che è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale, lei l'ha conosciuto, lui nelle intercettazioni la cita anche, ovviamente lei non ha nulla a che fare con l'inchiesta, ma lei in che rapporti era con lui? Odven lo conosco dal 2008, quando sono stato commissario di Roma. Noi è stata una sorpresa amarissima, onestamente sconvolgente, direi quasi sconvolgente. Se le cose stanno come stanno, e io ho una totale fiducia soprattutto nel procuratore Pignatone, che conosco come uno dei migliori magistrati italiani, evidentemente in galera deve stare e là deve rimanere. Senta, proprio stamattina c'era una notizia dell'ANSA di un barcone con a bordo 200 migranti localizzato vicino alle dalla marina mercantile greca, vicino alle coste greche. Sembra, ma questa era una notizia dell'ANSA, che i migranti abbiano chiesto di venire in Italia invece che in Grecia. Esattamente, questo è un problema che si sta mostrando in maniera sempre più imponente. La Grecia è nelle condizioni in cui è, e per cui o fa finta di non vederli o comunque li fa passare, e per cui naturalmente l'Italia poi diventa la meta preferita, la meta sognata. Default, crack, mettetela come vi pare, sono frasi che ci siamo abituati ad utilizzare per quanto riguarda le aziende, un po' meno quando si parla di un ordine monastico. Nella fattispecie parliamo dei francescani. C'è un vero e proprio caso di dissesto finanziario che li riguarda. Ci colleghiamo con Carlo Marroni del Sole 24 Ore, che ha seguito un po' queste vicende. Carlo, buongiorno innanzitutto. Grazie, buongiorno a voi. Come nasce questo problema, come nasce questa questione? Premesso che non è la prima volta che un ordine religioso va in dissesto, ce ne sono stati molti, e anche riguardo alla sanità o altro, o altri casi, salesiani, eccetera. I francescani, che sono forse uno dei più grossi, insieme ai gesuiti, ordini, questi sono specifici, francescani frati minori, sono quelli più famosi, quelli che stanno a Gerusalemme, eccetera, e hanno fatto, dice, evidentemente negli anni scorsi c'è stata una gestione della cassa molto poco oculata, hanno fatto degli investimenti pari o sbagliati, addirittura in aziende che sarebbero coinvolte in armi, aziende diciamo quotate in borsa, quindi in investimenti in Svizzera, ma questo è da confermare. Sicuramente hanno costruito anni fa un albergo vicino a San Pietro, il Cantico, un albergo molto bello che io conosco peraltro, perché è un albergo diciamo pubblico, però molto poco si dice francescano, e comunque sia il superiore generale dell'ordine è un americano, Michael Perry, ha rimosso l'economo, ne ha messo un altro e sostanzialmente ha commissariato la gestione economica, perché si sarebbe, questa è la rivelazione di ieri di Panorama, un buco di svariati milioni di euro. Quindi la dimensione del buco non si conosce esattamente, no, Carlo? Ancora. Non ancora, perché poi insomma queste cose sono molto riservate, è stata rivelata, in qualche modo loro hanno confermato che c'è una lettera ufficiale del superiore a tutti i confratelli, stiamo parlando di oltre 10.000 francescani, in cui mette in luce questo problema e fa sì che dice che ci sono stati gli spostamenti, ha richiamato un frate da Salerno molto bravo, pare nella gestione delle cose economiche, e ha diciamo rimesso tutto questo, è perché questo superiore è lì è a capo dei francescani da 7-8 mesi e quindi evidentemente ha scoperchiato, ma questa è una supposizione, le gestioni precedenti, che evidentemente non erano molto oculate, anzi non erano per niente. Grazie a Carlo Marroni del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Antonino Melara, dirigente del Sistema Regionale della Protezione Civile della Regione Toscana, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Vorrei capire qual è la situazione, se ci sono danni, che notizie avete. Naturalmente ci stiamo riferendo, gli ascoltatori lo sanno e lo sa anche lei, alle scosse di terremoto che ci sono state in queste ore nel Chianti. Ma diciamo che questa notte intorno all'una ad ora abbiamo avuto circa 43 scosse, però di magnitudine sopra il 2, non superiore a 4. La situazione è attenzionata, ovviamente non ci risultano ad ora al momento danni, molte scuole comunque sono state evacuate, uffici pubblici, e comunque da dire che è una situazione che già si è verificata in queste zone, già negli anni, già dal 1700 in poi sono verificate di questi sciami, non sono arrivate mai oltre una certa intensità, il 5.1 stimato, però parliamo del 1800, quindi sì, non abbiamo diciamo dati più aggiornati, sì. Quindi la situazione è ovviamente sotto controllo, ma nei limiti in cui si può dire sotto controllo di terremoti. Ovviamente. Sono prevedibili. Ovviamente. Diciamo che tutte le forze di protezione civile, sia regionali che statuali, sono allertati. Senta, e ci conferma che al momento non sono segnalati danni? Non... Al momento, però, sai, quando avvengono queste cose non si vedono subito e si scoprono anche i giorni successivi. Non ci vengono segnalati danni in questo momento. Grazie anche ad Antonino Melara. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Come sempre a quest'ora veniamo al momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Grande scampanellio natalizio ieri al New York Stock Exchange. Beh, devo dire, è stata una giornata entusiasmante. Sotto l'albero di Natale gli operatori, gli investitori hanno trovato un aumento di oltre 700 punti in due giorni. Ieri il 2,43%, siamo arrivati già a quota 17.788, non lontani dal record, un record che viaggia a quota 17.958 79, vicinissimo a quota 18.000. Questo livello psicologico di quota 18.000, ancora la borsa non è riuscito a superarlo. Chissà che non riesca a farlo da qui alla fine dell'anno. Beh, devo dire, le premesse ci sono tutte. E cosa ha festeggiato ieri Wall Street? perché proprio ieri c'è stato questo straordinario aumento? Per quel che ha detto l'altro giorno questa signora. Sentiamola, Janet Yellen, governatore della Federal Reserve. The statement that the committee can be patient should be interpreted as meaning that it is unlikely to begin the normalization process for at least the next couple of meetings. Dunque, voi avreste dovuto anche vederla, perché ha un caschetto di capelli bianchi, è una signora molto posata, molto tranquilla, parla senza eccitazione, con una certa monotonia nella voce, eppure, ragazzi, ha scatenato i mercati usando una parola che intuitivamente dovrebbe ispirare il contrario della grinta e dell'aggressività. Ha detto pazienza. Avremo pazienza. Ecco, questa introduzione della pazienza era legata all'aumento dei tassi di interesse. I tassi di interesse americani, come sapete, sono tra lo 0 e lo 0,25%. Da qui al 2015, forse alla prima metà del 2015, forse a giugno del 2015, ci sarà un aumento dei tassi di interesse, è inevitabile. Però questa signora, con calma assoluta e serafica, ha fatto capire che intanto forse sarà più verso la seconda parte, verso la fine dei primi sei mesi, che non nella prima parte. E poi ha detto che anche se questi aumenti ci saranno, saranno molto, molto contenuti. Il mercato si fida della signora Yellen, o meglio dovrei dire, si fida di una istituzione che è completamente autonoma e si fida di una politica della comunicazione che ormai da qualche anno poggia sulla chiarezza e su un presupposto che finora non è mai stato tradito, e cioè la Fed dice quel che farà e poi fa esattamente quello che dice. Ecco, la Yellen, oltre a dire che avrebbe avuto pazienza, ha anche detto che l'economia americana sta andando molto bene, che la ripresa c'è e che i prezzi del petrolio in caduta aiutano l'economia americana. Gli aspetti positivi di questa caduta del greggio superano quelli negativi. Ha detto quali sono quelli negativi? Beh, ve l'avevo raccontato l'altro giorno, il rischio possibile che il settore finanziario possa andare a soffrire di qualche prestito, diciamo, non troppo solido di quelle compagnie petrolifere che operano nello shale oil e nello shale gas, che magari oggi hanno dei costi di estrazione superiori a quelli che sono i prezzi di mercato e energetici. Ecco, però l'equazione complessiva per il sistema paese è buona ed è questo che il mercato ha seguito. L'occupazione sta andando molto bene. Diciamo che la staffetta fra uno straordinario periodo di espansione monetaria e un periodo che sta per cominciare, che forse è già cominciato, un periodo che vede un'economia americana che è in grado di correre sulle sue gambe e viene premiato dal mercato. Questo ci porta, l'ho già fatto altre volte fino alla noia, però devo farlo di nuovo, a un confronto con la Banca Centrale Europea. Una banca centrale che soffre troppo delle influenze politiche, perché quando un governatore della banca centrale tedesca dice no al quantitative easing che vuole introdurre Mario Draghi, cioè quelle manovre di stimolo che possono aiutare l'economia europea, il no non è come quello che fu di Stanley Fischer l'altro giorno, il numero due della Fed, di un intellettuale che ha le sue idee. È il no della Germania, è il no di un paese che conta forse troppo in Europa. Ecco, questa percezione di mancanza di autonomia totale da parte della Banca Centrale Europea preoccupa, e preoccupa anche il fatto che non ci sia una politica delle comunicazioni così trasparente, così chiara come quella che abbiamo visto negli ultimi anni da parte della Federal Reserve. Speriamo che nel 2015 qualcosa possa cambiare. Il Natale non è arrivato soltanto sotto l'albero degli operatori e degli investitori americani, ma è arrivato anche sotto l'albero dei cubani, almeno questa è la promessa. Dopo l'annuncio del presidente Barack Obama, si vedono soprattutto quali possono essere i cambiamenti economici, soprattutto per Cuba naturalmente. Ma c'è anche molta felicità in America, soprattutto tra i fumatori di sigari. Perché? Perché i cubani, Cuba in testa, che sono forse i migliori, in America sono proibiti, sono illegali. Ecco, questa è, diciamo, una delle note a piedi pagina dell'annuncio dell'altro giorno. Sarà possibile comprare i Cuba in America? La risposta è no, non sarà possibile. Sarà possibile comprarli a Cuba e sarà possibile comprarli per quegli americani che hanno avuto il visto e che potranno continuare ad avere il visto, che vanno a Cuba per questioni di lavoro. Ma i turisti no. Le persone che potranno andare a Cuba con un visto regolare potranno comprare fino a $100 di sigari cubani, ma i turisti no. I turisti no, perché non potranno andarci. Gli importatori non potranno importare perché restano le regole del congresso che impediscono l'interscambio fra Stati Uniti e Cuba. Questo perché se lo sviluppo dell'altro giorno, lo sviluppo della normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra Stati Uniti e Cuba sul piano simbolico, sul piano storico, è veramente una svolta molto importante, beh, su quello economico forse dovremmo aspettare ancora un pochino. Ci saranno delle rimesse che potranno aumentare da 500 a 2000 dollari per il trimestre e ci sarà soprattutto la speranza di poter finalmente un giorno cambiare qualcosa a Cuba, perché diciamolo, per ballare bisogna essere in due. Gli Stati Uniti hanno aperto una porta, Cuba ha recepito il messaggio, ma ora bisogna che Cuba prenda esempio da quello che ha fatto la Cina comunista, e cioè l'adozione di un sistema capitalistico che farà molto bene alla sua economia, porterà benessere fra i suoi cittadini, pur preservando quei valori sociali, quei valori di socialismo che lo stesso Raúl Castro ha detto di voler tenere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Natale. Natale a New York. Le case degli americani sono piene di amici. Ci sono feste in continuazione, brindisi. È il momento in cui gli amici si trovano per vedersi, perché poi la settimana prossima, la settimana prossima sarà dedicata soprattutto alle famiglie. Lo spirito natalizio è già qui da qualche settimana. E dunque, in onore del Natale americano e di tutti noi, Jingle Bell, un classico per celebrare. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. Prima di chiudere vi dico che cosa succede da lunedì, ve l'abbiamo già detto in apertura, ve lo ripetiamo. Allora, da lunedì per due settimane soltanto, poi il 5 di gennaio effetto giorno torna nella sua versione tradizionale, dalle 13 alle 13.15 ci sarà il giornale radio e poi ci sarà uno spazio di approfondimento di effetto giorno nel quale tratteremo le notizie dell'anno, le storie che ci hanno più incuriosito e interessato, approfondiremo alcuni temi, alcuni anche su vostra sollecitazione, le sollecitazioni che ci sono arrivate da voi nel corso di questi mesi, quindi mi trovate effetto giorno a partire dalle 13.15 fino alle 13.45 e poi alle 13.45 come sempre ci sarà Mario Platero con America 24. I saluti di chiusura Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, come si diceva effetto giorno torna lunedì alle 13.15, noi ci risentiamo tra un attimo come sempre con GR24.